Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ritroviamo anche oggi gli amici dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Abbiamo con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca, benvenuto. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, parliamo di Equitalia. A parte che ero convinto, ma c'è ancora allora Equitalia? No, dal 1 luglio è ufficialmente scomparsa, e chiaramente le sue deleghe sono in mano adesso al governo. E, però insomma diciamo che resta ancora in piedi la questione della rottamazione che è stata chiesta nei mesi precedenti dal cittadino. Ecco, la rottamazione non è quella della propria autovettura che è vecchia da buttare, ma è quando praticamente uno ha delle cartelle esattoriali, deve pagare delle tasse e chiede che cosa? Praticamente di trovare un accordo. Sì, la rottamazione è stato appunto un provvedimento inventato dal governo proprio per andare a chiudere dei crediti con Equitalia da parte dei cittadini in modo più rapido possibile, in modo da incamerare i soldi, di andare anche verso appunto l'eliminazione di Equitalia. In pratica il credito viene ripulito da sanzioni e more. E diciamo che in molti casi, se non in tutti i casi, le cartelle si dimezzano a livello di importi, all'incirca si dimezzano, quindi sicuramente è stato un provvedimento che ha favorito molti cittadini. Diciamo che per certi versi noi lo abbiamo criticato, perché oggettivamente quando una persona chiedeva appunto di aderire alla rottamazione non poteva poi più contestare la cartella, mentre insomma diciamo che da noi si sono rivolte soprattutto persone che poi volevano contestare la cartella di Equitalia. In ogni caso diciamo che sicuramente è stato un vantaggio per tantissime persone che hanno potuto pagare, adesso stanno ancora pagando ovviamente, comunque accordarsi con Equitalia per rateizzare un debito ripulito dalle sanzioni e dalle more che veramente hanno caratterizzato questa stagione di Equitalia in modo molto negativo, andando a raddoppiare, triplicare dei crediti da parte dei cittadini. Ecco, noi nello specifico oggi cosa raccontiamo? Ma raccontiamo che ora la richiesta di rottamazione e i tempi per richiedere la rottamazione sono terminati e adesso noi ci stiamo già scontrando con i primi rifiuti da parte di Equitalia nei confronti di cittadini che hanno chiesto la rottamazione, quindi alcuni dinieghi che chiaramente per quanto ci riguarda non ritrovano molto riscontro. Temiamo che molti cittadini riceveranno delle risposte negative, perché alla loro richiesta diciamo che Equitalia va a rispondere in questi giorni e temiamo che molte risposte saranno negative. Nel caso che abbiamo seguito vediamo che queste risposte sono negative ma non hanno molto senso. In un caso una signora che aveva una cartella molto ampia di oltre 30.000 euro si è vista rifiutare, negare la possibilità di rottamazione, perché Equitalia dice che la signora stessa a fine dicembre non ha pagato una rata dovuta e invece da noi la nostra socia ci ha dimostrato che Equitalia stessa aveva stampato un foglio in cui diceva che in quel momento la sua situazione era assolutamente a posto. Cosa succede? Succede che a questo punto, avendole negato la rottamazione, la signora dovrà pagare praticamente il doppio di quello che era preventivato, di quello che poteva pagare senza le sanzioni, senza le more. Un caso ancora più particolare, questo lo stiamo affrontando e vi terremo ovviamente aggiornati, è quello di un altro signore che si è rivolto a noi con delle multe automobilistiche in macchina. In questo caso Equitalia, o supponiamo un dipendente di Equitalia, questo andremo a chiarirlo, ha detto al nostro socio che il comune di Venezia, perché questo socio è veneziano, non ha aderito alla rottamazione, perché i comuni potevano anche scegliere di non aderire, per cui non poteva essere accolta la sua richiesta. Invece, a quanto ci risulta, il comune di Venezia ha aderito come alla rottamazione. Non capiamo dunque questa risposta negativa di Equitalia. Invitiamo ovviamente i cittadini ai quali Equitalia neghi la rottamazione a rivolgersi chiaramente a persone esperte per andare a valutare la situazione e capire il perché di questo diniego e casomai pensare insomma come agire, come intervenire. Assolutamente l'Adico non va in vacanza, c'è, e quindi forse resterete chiusi il giorno di Ferragosto, presumo. Penso di sì, spero di sì. Ecco. Però in ogni caso, ecco, ecco, ne approfittiamo per annunciarlo anche tramite il tuo programma, noi siamo aperti tutta l'estate. Va bene, allora ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, lì trovate anche i numeri di telefono per eventuali contatti e anche per scoprire interessanti notizie che pubblicate nel vostro sito. Grazie a Gianluca Codognato, speriamo allora che le cose con le rottamazioni vadano avanti e vadano sempre meglio. Grazie Gianluca. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.